cambierà. E prima o poi lei capirà. Cederà. Tua madre mi conoscerà. Anche a piedi correrò se mi chiami. Ed il cuore batterà nelle mani. Crollerà l'Himalaya, ma noi no. Troverò casa, 18 anni tu li avrai, tra un po', col maglione sopra i fianchi, ce ne andremo in periferia, là i ragazzi sono in tanti e poi si scambiano più energie, là nessuno ci fa caso, puoi vestirti come vuoi, angelini e ghetto, anime da gatto, abbiamo il diritto di amarci un po'. Io ti voglio addosso come un mare mosso, e con gli anfibi camminiamo noi in un tempo che non passa mai. Liberi, liberi. Cambierà, e prima o poi lavorerò. Cambierà, oh sì, e qualche lira girerà. È una sfida contro il mondo quest'amore, con te crescerò. Senza mai un dolore, io ti stringerò e mi addormenterò con te. Angelini e ghetto, anime da gatto, la vita addosso, il cielo su di noi. Gireremo a vuoto, due sopra una moto, coi capelli quando guiderai. Piano il viso mi schiaffeggerai. Angelini e ghetto, anime da gatto, nessuno mai ci deruberà della nostra età. E sotto le stelle